Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17, 6 minuti e 48 secondi. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Il tema principale che tratteremo oggi, come potrete ben immaginare, è quello del quale vi hanno parlato anche i giornali radio. Ossia questo dato pessimo sul prodotto interno lordo americano, non tanto e non solo per l'andamento del PIL nel secondo trimestre, quanto soprattutto per la revisione al ribasso del PIL del primo trimestre, che è stata molto pesante, da un più 1,9% a un più 0,4%. A dire la verità, la reazione immediata dei mercati era stata pessima anche qua. Il FTSE MIB era arrivato a perdere oltre 2 punti percentuali, il FTSE All Share altrettanto, l'America perdeva 1 punto percentuale. In realtà le cose sembrano parzialmente rientrate, se considerate che in questo momento l'America è vicina alla parità, il Dow Jones cede lo 0,24%. Milano cede lo 0,68 sul FTSE MIB e 0,5 punto percentuale sul FTSE All Share. Cercheremo di avere qualche spiegazione anche su questo, mentre incombe, come sapete, la questione del default americano, ossia la possibilità che non si raggiunga un accordo tra repubblicani e democratici per l'innalzamento del tetto del debito che viene fissato per legge e che quindi tecnicamente gli Stati Uniti vadano in default. Ci sono state espresse, e anche questo il giornale radio ve l'ha raccontato, le preoccupazioni del presidente americano Barack Obama su questi temi. Sempre dal lato dei mercati affronteremo un tema che è quello di Finmeccanica, perché se oggi il titolo migliore che sta anche aiutando la borsa italiana a tenersi su, i titoli migliori sono quelli di Lottomatica e Autogrill, che guadagnano il 9,71 e il 5,77% sulla scorta dei risultati semestrali. Finmeccanica oggi cede il 6,25% dopo aver perso oltre il 17% ieri. Cercheremo di capire qua se c'è solamente una questione di conti e di prospettive di ordini in calo, come vi abbiamo raccontato ieri nel nostro consueto appuntamento con i mercati, o se c'è qualcosa di più. Tutto questo, e sempre parlando di mercati, in una giornata nella quale i famosi spread, ossia i differenziali di rendimento tra BTP italiani e Bund tedeschi, continuano a crescere anche a causa del fatto che la situazione europea è in apparente deterioramento. Le agenzie di rating hanno avvisato la Spagna per un possibile appunto taglio del giudizio sul debito sovrano del paese. Parleremo di questo e parleremo anche di un tema che abbiamo lasciato sotto traccia nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, se vogliamo anche travolti dalle difficoltà finanziarie, evidentemente da altri temi, dalla politica economica, che è il rapporto tra banche e imprese, che come sapete è stato al centro dell'attenzione per molto tempo, subito dopo il crack di Lehman Brothers, la cosiddetta stretta sul credito che in realtà le banche hanno sempre negato. Lo faremo con una realtà particolare che si occupa se così possiamo definirla, finanza locale, anche se forse il termine sbagliato, in realtà di prestiti alle piccole e medie imprese, alle famiglie a livello locale, che sono le banche di credito cooperativo. E parleremo anche di aziende che nel pieno della crisi ce l'hanno fatta, hanno retto molto bene. Iniziamo dalle notizie in breve di oggi. Allora, petrolio in calo a New York, un meno 1,2% in apertura. Per quanto riguarda l'oro, invece, si è toccato un altro record a $1,634 l'oncia. Il dato sull'America che vi dicevamo, l'economia americana è cresciuta nel secondo trimestre dell'1,3%, la crescita del PIL è inferiore alle attese degli analisti che si attendevano un aumento dell'1,8%. Per quanto riguarda invece la revisione al ribasso del primo trimestre, più 0,4% rispetto all'1,9% stimato, come si diceva prima. La Spagna. Moody's ha minacciato di declassare il rating sulla Spagna, attualmente ad A2, a causa dei problemi generati dalle pressioni sulla capacità di finanziamento del debito. Lo spread italiano, la differenza tra BTP e Bund, tra rendimento di BTP e Bund, è salito a 335 punti, la Spagna è oltre 350 punti. Poi c'è stato un nuovo aggiornamento di questo record per quanto riguarda l'Italia, 338 punti. Il clima di mercato è difficile, scrive in un report citato all'agenzia di stampa Radio Cori Il Sole 24 Ore un analista di Unicredit, anche per i rumors circolati riguardo possibili dimissioni del ministro dell'economia Tremonti, clima reso negativo anche dalla questione irrisolta del tetto del debito pubblico negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la Spagna, poi Zapatero ha confermato elezioni anticipate a novembre, il 20 novembre per l'esattezza. Mentre la disoccupazione spagnola è scesa nel secondo trimestre al 20,9% rispetto al 21,3% dei tre mesi precedenti, ma comunque è rimasta, insomma, ve l'abbiamo appena detto, sopra la soglia del 20% per il terzo trimestre consecutivo. E c'è chi sta bene in Europa, è la Germania, con un'economia che continua a correre. A giugno le vendite al dettaglio, quelle che misurano per intenderci l'andamento dei consumi, sono balzate del 6,3% rispetto al mese precedente. Anche qua un rialzo mai visto nelle serie storiche disponibili che partono dal 1991, insomma dall'unificazione, dovuto principalmente al calo della disoccupazione che sta sostenendo il potere d'acquisto delle famiglie. Sono arrivate anche le stime europee sull'inflazione, si prevede in calo al 2,5% in luglio rispetto al 2,7% di giugno, mentre invece per quanto riguarda l'Italia luglio resta stabile al 2,7%. Mentre, come sapete, prosegue ancora, ve l'abbiamo raccontato ampiamente nelle settimane scorse, prosegue il giro di rialzi ai carburanti avviato ad inizio settimana da IP con un sostanziale allineamento al rialzo di tutti i marchi. Questa mattina mettono mano ai listini Esso, Quoto, Q8, Total Erghi. In media la benzina si vende a 1,631 euro al litro. Più due millesimi. Per quanto riguarda invece i dati Istat da questo lato, abbiamo una benzina che cresce del 13,5% in luglio rispetto ad un anno fa, il gasolio del 17,5% rispetto a giugno, un più 2,2% per la verde, un più 2,8% per il gasolio. Ci sono dati oggi anche dal Centro Studi di Confindustria che segnala come in luglio la produzione industriale sia calata dello 0,4% rispetto a giugno. E poi ci sono i dati dello Svimez. Due giovani su tre al sud sono senza lavoro, un dato che emerge dall'anticipazione appunto del rapporto dello Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Economia nel Mezzogiorno, secondo il quale la situazione è pesante anche per i laureati. Il 30% di loro non lavora e non studia. Abbiamo intervistato Luca Bianchi, vice direttore dello Svimez. È la manifestazione più evidente di un sistema che non riesce a offrire opportunità a quella che dovrebbe essere invece la parte più avanzata della società, quella che potrebbe offrire il maggior contributo in termini di sviluppo. Come mai? Qui c'è un problema proprio di modello di sviluppo del sistema paese, probabilmente, perché il dato che diventa acutissimo nel mezzogiorno in realtà è abbastanza forte anche nel centro-nord. E probabilmente riguarda, secondo noi, appunto un modello di specializzazione produttivo ancora molto schiacciato su settori a basso valore aggiunto, settori tradizionali, con una prevalenza di piccola e piccolissima impresa che offre pochissime opportunità per i giovani meridionali, per i giovani ad alta qualificazione. Mettiamoci oltretutto che c'è un sistema in cui l'accesso al mercato del lavoro è molto difficile. Dunque, due giovani su tre senza lavoro, oltre il 30% dei laureati che non lavora né studia, e parliamo del mezzogiorno. Tra l'altro, secondo i dati dello Svimez, l'emorragia di posti di lavoro durante la crisi è stata più forte al sud che al nord negli ultimi due anni, nonostante il numero di abitanti sia inferiore a quello del centro-nord e vi siano meno imprese. Sentiamo su questo sempre Luca Bianchi, vice direttore dello Svimez. È la dimostrazione che in realtà il sistema è molto più integrato di quanto pensassimo. Nel senso che noi ci aspettavamo che il Nord è più integrato sui mercati internazionali, quindi dipende più dalla domanda mondiale, dato che questa crisi è dovuta a un calo della domanda mondiale, doveva pagare più il Nord, che ha più imprese che esportano. In realtà il mezzogiorno dipende in larghissima misura dalle commesse e subcommesse del sistema del Nord. Il problema del mezzogiorno è che ha pagato molto di più la crisi per due motivi, innanzitutto per un sistema imprenditoriale complessivamente più debole. Quindi diciamo fatto da piccole e piccolissime imprese che non hanno retto la competizione, che erano in crisi ancora prima dell'inizio della crisi, perché i dati sull'occupazione dimostrano già il 2007 e il 2006 l'occupazione era cedente. E ultimo elemento è il sistema di ammortizzatori, cioè ha inciso molto, se lei vede i dati sulla cassa integrazione, nel nord per le caratteristiche del sistema imprenditoriale la cassa integrazione è stato uno strumento molto efficace di tenuta nella crisi. Nel mezzogiorno ha portato all'espulsione diretta dal mercato del lavoro di moltissime manodopera, soprattutto nel comparto industriale. Poi ci sono anche oggi le parole del ministro dell'economia Giulio Tremonti, dice sulla crisi bisogna fare molto di più e molto più in fretta, soprattutto a livello europeo. E poi ha parlato anche della patrimoniale, una follia, un errore, è intervenuto questa mattina a Uno Mattina, il programma di Rai 1. Sentiamolo. La manovra italiana è stata approvata, applaudita in Europa e siamo convinti che sia giusta e che porterà al pareggio di bilancio. Poi il debito scende. Non basta, e lo sappiamo, serve la crescita ed è per questo importantissimo il documento che hanno fatto tutte le parti economiche e sociali. Non è che prima non è stato fatto niente, ma certamente va fatto di più. E io sto contattando quello che manca in questo meccanismo, tutto l'estero. Bisogna sentire il Fondo Monetario, l'OCSE, gli esperti internazionali, in modo da lavorare insieme e da sentire anche non solo quello che si pensa o si vuole Italia su Italia, ma anche quello che ci consigliano da fuori. E insieme si può andare avanti. Crescita. Ieri abbiamo lanciato un grandissimo fondo di investimento misto pubblico-privato, che è il secondo, un altro era stato fatto l'anno scorso. I risultati si vedono in progressione, ma non è che si fa niente, è che si deve e si può fare di più per la crescita. Senta, per la crescita noi in queste due settimane... Detto questo, la patrimoniale la possono fare loro, io credo che sia una follia. Lei non la fa, va bene. No, ma è una follia, un errore. Così il ministro dell'economia Giulio Tremonti, ma insomma, dove trovare questi soldi? Oggi, non a caso oggi, la Commissione Finanze della Camera ha tirato fuori un documento conclusivo di un'indagine conoscitiva sugli immobili pubblici. Ebbene, che emerge che sono oltre 543.000 le unità immobiliari di proprietà dello Stato, per un valore che oscilla tra 239 e 319 miliardi di euro. Fossero 300, vado a spanne, circa un sesto del debito pubblico. Certo, non si potrà vendere tutto, ma... una gestione oculata, sottolinea la Commissione, permetterebbe di abbattere appunto lo stock di debito, di abbassare il deficit, evitando così i tagli lineari. Chiudiamo questo giro di notizie in breve con la vicenda Alitalia. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul dissesto e ha notificato a 7 tra manager e funzionari in carica tra il 2001 e il 2007 il relativo avviso che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Bancarotta e reato contestato a tutti. Tra loro Gianfranco Cimoli, presidente ed amministratore delegato nel periodo 2004 fino al febbraio del 2007, e Francesco Mengozzi che lo precedette. A Cimoli sono attribuiti anche due casi di aggiotaggio. Veniamo al primo tema di questa giornata, ossia l'economia americana. Raise the debt ceiling, raise the debt ceiling. raise the debt ceiling, raise the debt ceiling, raise the debt ceiling, raise the debt ceiling, raise the debt ceiling, raise the debt ceiling. 14 trillion in debt, but yo, we ain't got no crime. Dropping $100 bills and billion-dollar bonds. Spending money we don't have, that's the name of the game. They call me cumulonimbus because you know. Allora, la canzone ve l'abbiamo già fatta sentire ieri, ce la terremo per qualche giorno probabilmente. Un rap dedicato all'innalzamento, alla necessità di innalzare il tetto del debito americano. Saluto Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che tra l'altro l'ha anche usata oggi nella sua America 24. Mario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È la grande canzone dell'estate, ovviamente. Un'estate torrida dal punto di vista dei conti americani, dal punto di vista dell'economia. Questi riaggiustamenti al ribasso del tasso di crescita, devo dire, stanno preoccupando. Ci si rende conto che alla fine il problema non è soltanto quello del disavanzo, del debito, del compromesso politico, ma il problema vero è quello, del resto ne parlavate poco fa col ministro Tremonti, è quello della crescita. La crescita americana, invece di aumentare come dovrebbe, invece di reagire alle misure di stimolo enormi che ci sono state nell'ultimo anno, pensate, 600 miliardi di dollari di QE3, quantitative easing, scusate, 2, la seconda, perché si sta già parlando della terza, e poi 1000 miliardi di dollari concessi in riduzione di contributi sociali in busta paga, quindi circa 1000-2000 dollari per famiglia per 100 milioni di americani. Ecco, queste misure non sono servite a granché e sono in esaurimento. Il QE2 è finito, i 1000 miliardi sono finiti e l'economia sta già mostrando la corda. Ecco, devo dire che questo ovviamente preoccupa molto tutti, anche i mercati. Sì, tra l'altro il Dipartimento del Commercio, ricordiamo i dati, li abbiamo dati in apertura, però li ricordiamo. Allora, è stata rivista la crescita del primo trimestre da un più 1,9% a un più 0,4%, cioè il taglio è di un punto e mezzo percentuale di crescita, di stima. Per quanto riguarda il secondo trimestre si parla di una crescita di un più 1,3%, mentre le attese degli analisti erano per un più 1,8%. Il Dipartimento del Commercio dice quella che, se vogliamo, è una banalità, nel senso che la recessione 2007-2009 è stata peggiore del previsto. È curioso, Mario Platero, che si trovi l'America nella stessa condizione dell'Europa sostanzialmente, cioè a dibattere sul tema se è più importante la questione del debito o è più importante la questione della crescita. Beh sì, e questo conferma una tendenza di fondo dei vecchi grandi paesi industrializzati. Siamo in un momento di grande trasformazione a livello globale, naturalmente. Dunque l'abbiamo visto a partire dal Giappone, poi l'Europa, adesso si aggiunge l'America, e invece le economie vibranti, quelle che crescono a tassi forsennati, sono poi, come sappiamo, quelle asiatiche, il Brasile, insomma i cosiddetti BRIC. Dunque c'è qualche cosa che sta cambiando nel modello macroeconomico globale. La questione è capire se si riuscirà a trovare quella forza di reazione per restituire vigore al tasso di crescita. E allora, se negli Stati Uniti a questo punto si sono provate un po' tutte le ricette, perché c'è una grande flessibilità nel mercato del lavoro, c'è una grande mancanza di rigide regole che imbrigliano magari lo sviluppo del business, ci sono state manovre di stimolo fiscale che noi ce le siamo sognate. Ecco, in Europa, devo dire, in questo frangente, soprattutto in Italia, abbiamo ancora lo strumento per poter cercare di stimolare la crescita, e cioè quello di togliere il tappo all'economia. Cioè, noi non cresciamo, siamo a dei tassi relativamente vicini allo zero, molto asfittici, zero. E allora cosa si può fare? Beh, le rigidità strutturali vanno eliminate. Il Sole 24 Ore ha fatto questa proposta in 9 punti, che poi è stata discussa anche a livello internazionale. Domani avremo l'intervento di un importante economista, Edward Altman, sul nostro giornale, che affronterà proprio questa cosa e cercherà di incoraggiare l'adozione di nuove regole che consentano di togliere il tappo. Allora noi, come Italia, potremmo avere uno slancio dal fatto che alcuni tappi blocca, in questo momento ci bloccano, possono venire tolti. Speriamo che succeda. Allora, noi adesso, intanto io vi segnalo che i mercati si sono assestati praticamente sulla parità, almeno quello americano e quello italiano, perché il FTSE MIB guadagna lo 0,06%, il FTSE OSHER c'è dello 0,01%, in America il Dow Jones perde lo 0,08% e il Nasdaq addirittura in guadagno, guadagna lo 0,42%, lo Standard & Poor's 500 anche guadagna lo 0,17%. Dicono le agenzie anche sulla scorta delle parole di Obama. Queste. What's clear now is that any solution to avoid default must be bipartisan. Ciò che è chiaro è che qualsiasi soluzione per evitare il default deve essere bipartisan. Deve avere il sostegno di entrambi i partiti, sia della Camera che del Senato. Ci sono diversi modi per risolvere il problema e oggi invito i democratici e i repubblicani al Senato a trovare convergenza su un piano condiviso da tutti e che potrei firmare entro martedì. Questa non è una situazione in cui le parti sono lontanissime. C'è un accordo di massima su quanta spesa si debba tagliare in modo responsabile come primo passo per ridurre il deficit. Il tempo sta per scadere. Dobbiamo raggiungere un compromesso entro martedì, così il Paese potrà effettuare i pagamenti in tempo, come ha sempre fatto. Se non arriviamo a un accordo, potremmo perdere il rating di AAA, e non perché non siamo in grado di far fronte ai pagamenti, ma perché non abbiamo un sistema politico da AAA. Il potere per risolvere il nodo del debito è nelle nostre mani. E questo in un giorno in cui ci è stato ricordato quanto sia fragile l'economia. Fragile the economy already is. Raise the debt ceiling, raise the debt ceiling, raise the debt ceiling, raise the debt ceiling, raise the debt ceiling. Allora Mario Platero, quello che vorrei capire da te e quello che ci stanno chiedendo gli ascoltatori da qualche giorno è come mai i mercati stiano reagendo tutto sommato con freddezza tanto alla vicenda del possibile default quanto oggi a questi dati sul prodotto interno lordo. Ma dunque, intanto consentimi di fare una piccola precisazione alle parole del Presidente, perché da saggio politico cerca sempre di tirare acqua al suo mulino, ma ha commesso un errore dal punto di vista tecnico non da poco, cioè lui dice non avremo la diminuzione del nostro credit rating se ci mettiamo d'accordo sul tetto sul debito. Ebbene, il problema non è il tetto sul debito, il problema è il disavanzo pubblico. Io scommetto che le agenzie per la valutazione del credit finiranno per ridurre la AAA americana anche se ci sarà un accordo sul debito, perché è una questione tecnica e si pensa che sia scontato, voglio dire, per alzare il tetto sul debito, mentre invece non ci sarà quasi sicuramente un accordo per poter rimettere a posto il disavanzo pubblico americano. Ecco, questo è il vero problema e da questo non ne usciremo, e nonostante il Presidente sia stato ottimista, ho paura che comunque sia, a meno che non ci si metta d'accordo per tagliare 3.000 miliardi di dollari, il downgrading dell'America ci sarà indipendentemente dall'aumento del tetto sul debito. Mercati. I mercati hanno già scontato una buona parte di quello che sta capitando e facciamo dei distinguo, i mercati in borsa in America sono un polo d'attrazione contro l'inflazione che tutti pensano si stia accumulando, numero uno, e sono un polo d'attrazione anche per coloro che cercano dei ritorni sui profitti. Le aziende americane stanno andando benissimo. Se lo Stato americano è in gravi difficoltà perché ha un disavanzo pubblico ormai enorme, pari al 10% del PIL, bene, la stragrande maggioranza delle aziende americane hanno una posizione di cassa positiva. Pensate che Apple Computer ha una posizione di cassa pari a 80 miliardi di dollari, cioè l'Apple Computer da sola potrebbe risolvere il problema della Grecia, per intenderci, è una posizione di cassa superiore a 127 paesi indipendenti, complessivamente Standard & Poor's 500, una posizione di cassa di tutte le aziende dello Standard & Poor's 500 di 970 miliardi di dollari, quasi 1000 miliardi di dollari, il settore privato americano nel suo insieme ha una liquidità di 2000 miliardi di dollari, quindi è sano e dunque gli investitori vanno su titoli sani. Non lo stesso si può dire, temo, di alcune aziende europee e di alcune istituzioni finanziarie europee. Questo certamente. Un'ultima domanda per te, Mario, che è una domanda che anche qua ci stanno rivolgendo spesso gli ascoltatori. Allora, parliamo di un default tecnico e ci interessa anche a livello più globale, spiegherò tra un attimo perché. Ci chiedono, ma se gli Stati Uniti vanno in default, chi ha investito in bond americani perderà tutto? Ed è una buona domanda anche perché ci sono stati, come per esempio la Cina, che ha, se non erro, un quarto del debito pubblico americano. Quindi è interessante, non solo a livello dei piccoli. Allora, rassicuriamo subito, non perderà niente nessuno con i titoli del tesoro americani. Su quello si può stare tranquilli e direi che possiamo anche dare una garanzia del sole 24 ore. Magari dopo i buoni risultati di ieri i nostri consiglieri non saranno troppo contenti di questa posizione. Però il fatto è che gli Stati Uniti riusciranno a indebitarsi sul mercato, non hanno un problema di trovare quattrini sul mercato, il problema è tecnico, manca una firma, manca la firma che ti consente di andare sul mercato e ritirare i soldi di cui hai bisogno. La situazione dei paesi a rischio default vero e non tecnico è che loro vanno sul mercato e non trovano i soldi e dunque non trovando questi soldi sul mercato non possono pagare i loro debiti. Gli americani possono pagare i loro debiti e li pagheranno, ci sarà forse un ritardo di qualche giorno, però ci sono già degli accorgimenti tecnici per poter spostare in avanti di qualche giorno questo tetto sul debito, per cui è soltanto, ripeto, una questione tecnica. I nostri ascoltatori che si preoccupano del rischio di perdere tutto quello che hanno investito in buoni del tesoro americano, stiano tranquilli, non perderanno una lira. Grazie dunque a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, e buonasera. Buonasera. Questo è il quadro dagli Stati Uniti. Noi ci ritroviamo tra un attimo per parlare di mercati, di come sono andate le borse oggi. minuti e 25 secondi, c'è qualche domanda da parte vostra sulla questione del debito americano. Ci dite, non ho capito il discorso della AAA. Allora, se vi riferivate a quello di Obama, era un discorso prettamente politico, nel senso che diceva se non arriviamo ad un accordo potremmo perdere il rating di AAA, e non perché non siamo in grado di far fronte ai pagamenti, perché gli Stati Uniti lo sono, ma perché non abbiamo un sistema politico da AAA. Se vi riferivate a quello che ci diceva Mario Platero segnalava che la condizione di finanza pubblica degli Stati Uniti, a prescindere dal raggiungimento dell'accordo sul tetto del debito, è tutt'altro che una situazione ottima. I calcoli variano, però possiamo dire che il rapporto debito-PIL americano si avvicina intorno, siamo intorno al 100%. C'è chi calcola molto di più mettendoci altre poste, un rapporto deficit-PIL molto alto, molto più alto dell'Italia. C'è chi calcola doppio anche qua, a seconda delle poste. È il momento, ed è proprio per questo motivo che il corrispondente del suo 24 Ore da New York ipotizza che le agenzie di rating possano intervenire lo stesso, anche se si raggiunge l'accordo sul debito. I mercati. Paolo Paronetto, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, questa giornata francamente non l'abbiamo capita, e te lo diciamo subito, perché abbiamo visto, dopo il dato sul prodotto interno lordo americano, Milano giù del 2%, poi siamo arrivati praticamente alla parità, adesso vedo la chiusura, meno 0,67 sul FTSE MIB e meno 0,65 sul FTSE All Share. Come mai? Sì, esattamente, gli indici hanno perso bruscamente terreno dopo la diffusione del dato sul PIL statunitense, peggiore delle attese, poi nell'ultima ora di contrattazione hanno recuperato, e secondo gli operatori questo recupero è da attribuire proprio alle parole del Presidente degli Stati Uniti e Barack Obama, che sono state lette in tutto sommato positivamente, soprattutto il fatto che Obama abbia detto che i democratici e i repubblicani non sono distanti chilometri e che il potere di risolvere il problema è nelle mani del Congresso, viene letto come, insomma, un giudizio positivo e di fiducia sulla possibilità di raggiungere un accordo. Gli indici, come hai detto tu, erano praticamente sulla parità. In asta di chiusura evidentemente sono stati regolati una serie di ordini di vendita che proprio negli ultimi due minuti hanno portato Milano a perdere oltre mezzo punto, ma comunque le perdite sono state decisamente più contenute rispetto al meno 2% che è stato toccato dopo il dato sul PIL. E rispetto a tutto quello che ci attendevamo noi subito dopo aver visto il dato sul prodotto interno lordo americano, del resto l'America cede lo 0,26% in questo momento sul Dow Jones, lo 0,05% sullo Standard & Poor's e guadagna lo 0,16% sul Nasdaq, ne abbiamo parlato prima con Platero, questo è dovuto all'andamento delle società americane. Parigi cede l'1,07%, Francoforte lo 0,44%, Londra lo 0,63%. Ti tengo breve, Paolo, su Finmeccanica, perché poi sarà uno dei nostri argomenti di approfondimento. Comunque 7 punti percentuali di calo anche oggi. Sì, non c'è null'altro da aggiungere rispetto a quanto detto ieri. Il titolo continua a risentire dei conti, soprattutto della revisione al ribasso delle stime sul 2011 dopo il meno 17% di ieri, un altro meno 7% anche oggi, la peggiore tra le blue chip milanesi. Ci chiedete di Parmalat, ma Parmalat non vale più niente dopo l'OPA. Parmalat oggi perde il 4,5% ed è il secondo titolo peggiore tra le blue chip, Paolo. Sì, ieri la società ha comunicato i conti semestrali, i primi firmati da Lactalis, e gli analisti sono stati delusi soprattutto dal dimezzamento dell'utile netto e quindi da una redditività fortemente ridotta rispetto allo stesso periodo del 2010. L'utile netto infatti è stato pari a 76,5 milioni, un anno prima era 147 milioni, quindi proprio una marginalità bruscamente ridotta. Gli investitori hanno punito il titolo per questi conti, come dicevi tu è stato il secondo peggiore sul FTSE MIB. Sì, mi sembra che continui ad essere un periodo nel quale si gioca molto sulle semestrali e molto poco sui grandi temi complessivamente, soprattutto gli ultimi 2-3 giorni, Paolo. Anche oggi Mediaset un 2,73% dopo aver guadagnato ieri anche proprio sulla scorta dei conti, A2 Agu del 2,11%, Mediolanum del 2,03%, Campari dell'1,96%. Ti porto dal lato buono del listino, a partire dall'Automatica più 9,08%. Anche qui, come dicevi tu, proprio in questi giorni stanno arrivando un'ondata di conti, quindi spesso i titoli si muovono sulla scorta dei risultati di bilancio. L'Automatica ha comunicato risultati di bilancio in crescita e soprattutto ha alzato le stime sulla marginalità e ridotto quelle sull'indebitamento per il 2011, quindi è stato oggi il titolo migliore sul FTSE MIB, ha guadagnato il 9,08%, un andamento appunto speculare rispetto ad esempio a un altro titolo che citavi tu, Mediaset, anche se Mediaset ha perso in modo molto più contenuto rispetto ai guadagni di Lottomatica. Mediaset aveva comunicato conti tutto sommato in linea con le attese, ma aveva tagliato le stime sul 2011 e quindi oggi ha perso terreno, al contrario appunto di Lottomatica che l'ha guadagnato. E certo, ebbene anche Autogrill sulla stessa scorta, più 4,85. Esattamente, anche qui risultati tutti in crescita sia per quanto riguarda i profitti che quanto riguarda gli altri margini. Inoltre il management ha indicato la conferma delle stime sul 2011 sottolineando che le prospettive sono positive per quanto riguarda il business della società e quindi anche in questo caso gli investitori hanno premiato il titolo. Ecco, se vogliamo trovare un tema di giornata forse sono le telecom. Telecom Italia guadagna il 2,21%, c'è un, diciamo, la questione a livello europeo, mettiamola così. Sì, questo è un tema di settore a livello europeo, il sottoindice delle telecomunicazioni è stato di gran lunga il migliore a livello continentale, ha guadagnato l'1,75%, in questo caso a trainare il comparto è stata la britannica Vodafone che ha guadagnato oltre il 4%, la buona notizia per Vodafone è che la joint venture che ha in essere con la statunitense Verizon, che si chiama Verizon Wireless, ha annunciato che all'inizio del 2012 distribuirà un maxi dividendo da 4,5 miliardi di dollari. Si tratta della prima cedola della joint venture dal 2006 e Vodafone ha già comunicato che redistribuirà ai propri azionisti parte di questo dividendo con a sua volta una cedola straordinaria che è attesa nel febbraio 2012. Allora, ho da chiederti su un altro paio di titoli, Paolo, a partire da Eni, ma subito dopo la viabilità. Allora, Paolo Paronetto, anche i conti di Eni non sono piaciuti al mercato. Sì, anche Eni oggi ha comunicato i risultati di bilancio, l'utile è sceso del 6%, diciamo che in questo caso proprio più che altro sono mancati spunti positivi per gli analisti, i conti sono in lieve calo, Eni ha annunciato un acconto sul dividendo di 0,52 euro, c'è da dire che ha risentito anche insieme a tutto il comparto della debolezza odierna del prezzo del petrolio. In questo momento il WTI sta perdendo l'1,58%, quindi evidentemente i titoli del settore ne risentono. Grazie a Paolo Paronetto di Radio Cuore il Sole 24 Ore, buonasera. Grazie a voi, buonasera a tutti. Noi diamo il restante quadro della giornata. Allora, di Finmeccanica, Parmalat e Mediaset vi abbiamo detto, Finmeccanica ne parleremo tra un attimo, A2A giù del 2,11%, Mediolanum del 2%, Campari dell'1,96%, Exor dell'1,82%, un punto e mezzo per Luxottica, di Eni abbiamo detto, scendono dell'1,2% anche Saipem e Prismian, di poco più di un punto percentuale Tenaris, Generali, Pirelli ed ST Microelectronics, dello 0,8 Enel Green Power e la controllante Enel, Atlantia dello 0,7 così come Unicredit, in pregilo dello 0,6, di poco meno di mezzo punto percentuale Fiat Industrial, il Monte dei Paschi e il Banco Popolare, banche piuttosto incolori nella seduta di oggi, e viene da dire per fortuna, visto quello che abbiamo visto nei giorni scorsi. Snam, Rete Gas e Azimut giù dello 0,35, Intesa San Paolo dello 0,31. Tra i titoli in positivo, oltre all'Automatica, Autogrill, Telecom Italia che vi abbiamo segnalato, c'è anche Buzzi Unici, che guadagna quasi 2 punti, Terna l'1,6, oltre un punto percentuale per Ansaldo e UbiBanca, lo 0,6 la Popolare di Milano, bene Toz e Diasorin su di mezzo punto, dello 0,3 Mediobanca e Bulgari, e Fondiaria Sai dello 0,17. Non vi abbiamo detto Fiat, giù dello 0,22%, euro che quota 1,43,81 contro dollaro. E adesso parliamo di Finmeccanica. Quantomeno è un caso di borsa, quantomeno, perché negli ultimi 2 giorni ha lasciato giù circa il 25%. Abbiamo visto anche qualche messaggio che ci arrivava da voi al 349-238-6666, messaggi nei quali ci chiedevate lumi. Ad innescare il tutto naturalmente è stata la diffusione dei risultati semestrali comunicati mercoledì a borsa chiusa, e questo ve lo abbiamo raccontato. Beh, però un 25, 22, 23% quanto è di calo in 2 giorni è veramente tanto. Massimiliano Zampini di Radio Cuore il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Simone, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, sono solamente i conti? Guarda, i conti sicuramente hanno pesato, e c'è da dire, c'è da registrare subito una notizia di questi minuti, cioè una reazione della società per bocca dell'amministratore delegato Giuseppe Orsi al crollo, al vero e proprio crollo che avete raccontato del titolo in borsa negli ultimi 2 giorni. Ebbene, l'amministratore delegato della compagnia in una nota dice che i risultati del primo semestre, quelli che appunto hanno innescato in qualche modo, diciamo così, questo crollo in borsa, non riflettono il grande potenziale di creazione di valore che ha il gruppo, e sostiene Orsi che il titolo è fortemente sottovalutato. Allora c'è da fare anche un'altra premessa, Simone: il crollo, cioè presentarsi con dei dati sicuramente negativi come quello sono stati quelli di Finmeccanica in queste giornate di borsa sicuramente ha accentuato la caduta del titolo, cioè presentarsi in giornate migliori insomma avrebbe sicuramente attenuato il tutto. Però c'è da dire che Finmeccanica sta scontando una serie di problemi che sono stati resi noti dal nuovo management. Ci sono dei settori che non vanno bene, in particolare l'aeronautica, l'elettronica per la difesa e i trasporti, sulla quale il gruppo si è espresso in modo abbastanza netto, cioè c'è un problema al saldo breda, la società che produce treni, che da anni è in perdita, e su questo il nuovo amministratore delegato è stato molto chiaro: o si riesce a rimettere in sesto la società entro l'anno oppure la si vende. C'è lo spettro di un processo di ristrutturazione che si presenta piuttosto consistente, e poi naturalmente il gruppo non si sa se da un punto di vista strettamente di mercato, però certo anche le vicende giudiziarie che lo hanno interessato in questi mesi sicuramente non hanno contribuito a metterlo in una luce positiva. Beh, qualche discreto calo di borsa anche sulla base delle inchieste, di quello che usciva sui giornali tutte le mattine, lo abbiamo visto nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, no? Non ci sono dubbi che sono molti mesi che il gruppo è nel ciclone giudiziario. La settimana scorsa è arrivata la notizia che è indagato anche il suo presidente Pierfrancesco Guarguaglini, e in quel giorno in particolare ci fu una reazione da parte del mercato a questo. Sicuramente, ripeto, non sono notizie strettamente collegate all'andamento della società, però è evidente che anche questo in qualche modo ha avuto un suo peso. Ripeto, ci sono dei problemi strutturali e ci sono anche dei problemi esogeni al gruppo, c'è un contesto macroeconomico complicato. Innanzitutto la cosa che state raccontando ampiamente in questi giorni, il mancato accordo sul debito americano, con i possibili forti tagli al budget della difesa, qualora appunto si trovasse un accordo, questo per Finmeccanica è un grosso problema. Finmeccanica non più tardi di 3 anni fa ha comprato un'azienda molto importante negli Stati Uniti, DRS, facendo un investimento estremamente significativo, 3,5 miliardi di euro, proprio per mettere un piede significativo su quel mercato. Nel momento in cui quel mercato si comincia a restringere, e ricordiamo nel caso della difesa è il mercato più importante del mondo, è evidente che questo crea dei problemi alla società. E poi c'è anche da dire, anche su questo le parole di ieri del management sono state abbastanza chiare: forse negli anni di vacche più grasse alcuni problemi che esistevano da un punto di vista dell'efficienza industriale del gruppo non sono stati affrontati con la giusta determinazione che oggi il nuovo amministratore delegato Orsi e il direttore generale Panza sembrano voler mettere in campo anche in modo molto forte. Appunto, è atteso un nuovo piano per alcune società del gruppo, ma che investirà in qualche modo appunto tutta la holding, è piuttosto forte per recuperare efficienza, perché la competizione sui mercati internazionali è sempre più significativa, e perciò per prepararsi a questa bisogna intervenire in modo piuttosto duro. Sì, questo certamente. Ecco, poi naturalmente al di là dei risultati, nella giornata di oggi e in quella di ieri hanno pesato le stime, Massimiliano, soprattutto anche dal lato degli ordini, no? Delle stime al ribasso. Le stime sicuramente hanno pesato, ha pesato il taglio delle stime sugli ordini, ha pesato il taglio delle stime sui ricavi. C'è incertezza sulla redditività del gruppo per quest'anno, un dato che non è stato ancora rivisto, su cui il direttore generale Panza ha detto che si sta lavorando e che sarà comunicato nei prossimi mesi al mercato. E anche questa incertezza su quanto e se la società possa essere profittevole in quest'anno sicuramente ha agitato molto i mercati, non ci sono dubbi. Certo, ci scrivete al 3492386666, Finmeccanica quota molto meno del solo proprio patrimonio immobiliare. Insomma, adesso non sappiamo se questo sia vero, forse non abbiamo proprio i numeri sotto mano. Certo, come dire, si è svalutata parecchio per i motivi che abbiamo sopra esposto negli ultimi mesi. Grazie a Massimiliano Zampini di Radio Cori Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi, grazie. Allora, tra le altre cose, tra gli altri SMS che stanno arrivando, le aziende americane, ci dite, stanno andando benissimo, ma il prodotto interno lordo ha fatto solo un più 0,4%. Questo è un tema che abbiamo affrontato anche nelle settimane scorse, nei mesi scorsi. Perché le aziende americane vanno bene? Non sono solamente la Apple, che fa evidentemente dei prodotti che piacciono e che riescono ad entrare bene sul mercato, ma sono anche aziende che molto semplicemente hanno ristrutturato, e quindi che cosa fanno? Presentano dei conti eccellenti a volte, banalmente perché hanno licenziato, hanno ridotto ridotto i costi all'osso e quindi ovviamente presentano dei conti buoni. E questo però non è che supporti la crescita, perché se metti 30.000 persone in mezzo ad una strada migliorano i tuoi conti, ma quelle 30.000 persone non hanno i soldi per comprare qualcos'altro e quindi evidentemente tutto questo ha un impatto sull'economia. Noi ci risentiamo tra poco, adesso diamo la linea al giornale radio. Parleremo tra le altre cose anche di imprese, parleremo di rapporto tra imprese e banche. Le 18, 7 minuti e 35 secondi di nuovo. Buonasera da Simone Spezia, bentornati per la seconda parte di Focus Economia. Ci chiedete della notizia del ponte sullo stretto. Sì, il consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina ha dato il via libera al progetto definitivo dell'opera. A darne notizie è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, che ha partecipato questa mattina alla riunione del CDA. L'investimento complessivo viene aggiornato da 6,3 ad 8,5 miliardi. Vi ricordiamo che nei giorni scorsi, ci ricordate anche voi nei giorni scorsi, sì, l'Europa insomma di fatto sta per cancellare i fondi destinati al ponte sullo stretto, preferendo un altro corridoio, quello per così dire di passaggio dalla Puglia. Allora, abbiamo parlato molto di mercati. Io vi ricordo tra l'altro che domani il Sole 24 ore sarà in edicola e abbiamo parlato anche di manovra con un appuntamento con le nuove pagine di Tutto Manovra, le nuove pagine quotidiane che per tutta l'estate offriranno indicazioni pratiche e approfondimenti su come affrontare le novità normative. Domani le semplificazioni per costruire, le novità sugli appalti, ci sarà una nuova puntata del manuale anticrisi a cura di Fabrizio Galimberti e poi naturalmente come ogni sabato in edicola anche Plus 24, focus sui saldi d'estate in borsa. Ora parliamo di imprese. Ne parliamo in occasione del premio Le Tigri del 2010, ideato lo scorso anno, che premia le imprese e i loro manager che pur in un contesto economico e finanziario difficile come quello vissuto e che vi stiamo raccontando in questi giorni sono stati comunque in grado di reagire. Saluto Lelio Bigogno, partner e amministratore delegato di Tickmark, la società di revisione contabile indipendente che è promotrice del premio. Buonasera. Buonasera a lei. E saluto il premiato Paolo Nava, presidente di SMI Group. Buonasera Nava. SMI Group è un'azienda che si occupa di macchinari, produce macchinari per imballaggio ed è tra i leader mondiali. Chiedo innanzitutto a Bigogno di spiegarci la ratio del premio, quali aziende siete andati a cercare, che tipo di giuria era. Bigogno. L'idea del premio è nata circa 2 anni fa, come lei ha ricordato, la prima edizione è stata quella del 2009, questa è stata la seconda edizione, siamo andati a cercare quello che è il tessuto imprenditoriale prevalente e preponderante in Italia, ossia la piccola e media impresa, in particolare quella di matrice familiare. Con questo riconoscimento infatti intendevamo premiare, dare visibilità a quelle piccole e medie imprese che nonostante il periodo di crisi che come lei ha ricordato perdura ormai da un paio d'anni, anche se ora con qualche segnale di ripresa, ce l'avessero in qualche modo fatta attraverso le loro caratteristiche qualitative e quantitative. La giuria è una giuria assolutamente indipendente rispetto all'organizzazione del premio perché è composta da professori universitari, giornalisti ed esponenti del mondo della finanza che sono totalmente indipendenti dagli organizzatori, per cui è andata a individuare queste 10 aziende, 5 l'anno passato e 5 quest'anno, che sicuramente rappresentano delle eccezioni e delle variabili eccezionali nell'economia italiana perché hanno saputo performare molto al di là di quelli che sono stati gli andamenti dei mercati. Allora, se non erro, presidente Paolo Nava, presidente di SMI Group, nel 2010 il vostro fatturato ha fatto segnare un più 13% sul 2009. Tra l'altro siete un'azienda votatissima all'export e in quello che è uno dei classici settori di esportazione italiani, ossia i macchinari industriali. Esattamente, esattamente. Ci dica una cosa, dato che la menzione è arrivata per ricerca e sviluppo, come vi siete mossi? Perché quello che è emerso in questi mesi è che anche il vostro settore nel suo complesso ha retto con difficoltà all'urto della crisi. Ma diciamo che noi abbiamo sempre avuto una vocazione innovativa su tutti i nostri prodotti, non solo i prodotti ma anche nei processi. Abbiamo preso questa pausa di riflessione per poter concentrarci meglio nell'ottimizzare sia il prodotto che i processi. Ma quanto avete investito in ricerca e sviluppo, Nava? Ma noi nel 2010 abbiamo toccato una punta elevatissima che intorno al 6%, però storicamente siamo sempre stati intorno al 4%. Quindi avete deciso in sostanza di spingere un po' di più nel 2010? Esattamente. E questo per quale motivo? Per reggere la concorrenza internazionale, immagino? Sì, ormai il mercato globale, non esiste più il mercato europeo. Noi esportiamo in 130 paesi, praticamente tutto il mondo, per cui i concorrenti sono dagli asiatici agli europei agli americani. Di conseguenza l'unica alternativa è avere prodotti con elevati contenuti tecnologici e un prezzo interessante. Con gli asiatici in particolare come va? Perché, e mi riferisco naturalmente alla Cina, perché da quel lato i problemi per l'industria, la vostra industria di settore, sono stati chiari fin dall'inizio, cioè molto brutalmente i cinesi copiavano e rivendevano a prezzo più basso. Tuttora lo fanno. Per cui è fondamentale distinguersi con un contenuto tecnologico totalmente diverso. Noi quest'anno faremo oltre il 40% in Cina del nostro fatturato. Quindi vendete tantissimo in Cina, anche questo è un elemento interessante e se vogliamo anche questo è un elemento di innovazione nell'ambito delle industrie italiane. Tra gli altri premiati, Bigogno, che cosa ci può segnalare? Riprendendo anche le parole del dottor Nava precedenti, devo dire che si vedono alcuni fattori comuni nelle aziende che abbiamo premiato. Sicuramente questa vocazione all'export, anche se devo sottolineare, sicuramente nata già prima del periodo della crisi, perché molte aziende che sono state premiate hanno tassi di esportazione sul fatturato, addirittura alcune arrivano al 90%, quindi è chiaro che questo processo è iniziato anni fa e non nel recente passato e quindi chi l'ha iniziato già da qualche anno ha avuto una buona presa in questo momento di crisi. Poi l'altro fattore sicuramente già ricordato è la ricerca e sviluppo e poi direi anche una qualità superiore alla media perché abbiamo avuto per esempio una delle aziende premiate oltre a SMI che è in un settore altrettanto attaccato, come ricordava prima il dottor Nava, dalla concorrenza cinese, ma che è riuscita attraverso una qualità eccezionale ad esportare anche in quei paesi. Quindi queste tre variabili, a mio giudizio, sono il mix che ha consentito a queste aziende di superare questo momento così, così difficile. Grazie dunque, grazie a Lelio Bigogno, partner e amministratore delegato di Tickmark che ha promosso questo premio Le Tigri del 2010. Buonasera Bigogno. Grazie, buonasera a tutti. E buonasera a tutti. E buonasera a Paolo Nava, presidente di SMI Group che ci ha già salutato. Ancora sul discorso di prima, ossia le aziende americane, se le aziende vanno bene, ci ripetete, producono, quindi il PIL dovrebbe crescere, il tema, lo ribadiamo, è sempre lo stesso, che non è detto che producano, magari i conti sono buoni semplicemente perché hanno tagliato in maniera molto energica i costi, o in gran parte per quello. La viabilità, poi ci ritroviamo e parleremo invece di credito alle imprese. Come si diceva, passiamo adesso ad un tema che, viste le notizie di cronaca di questi giorni, non tocchiamo da tempo. È il tema del credito, in particolare alle imprese. Ieri sono stati diffusi dei dati dalla Banca d'Italia nell'indagine sul credito bancario di luglio, nei quali si legge che i criteri di erogazione dei prestiti alle imprese nel secondo trimestre del 2011 hanno registrato un modesto irrigidimento. È un tema che abbiamo affrontato parecchie volte, come sapete, soprattutto nelle fasi più acute della crisi. Imprese spesso in difficoltà nell'ottenere credito da parte delle banche. Oggi ne parliamo con una realtà particolare, più vicina al territorio in certi casi del tradizionale sistema bancario, ossia le banche di credito cooperativo. Buonasera Augusto Dell'Erba, vicepresidente della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo. Buonasera a lei. Cerchiamo di dare un quadro di questa realtà: 415 banche di credito cooperativo e casse rurali con 4.300 e più sportelli, oltre 1 milione di soci, 5,7 milioni di clienti e una quota di mercato che non è piccola perché ammonta circa al 13%. Ora, il tema che vogliamo affrontare è esattamente quello dei crediti alle imprese. Noi vi possiamo fornire un dato che è quello degli impieghi all'ordo delle sofferenze per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, e quello che ci interessa è la crescita annua, in particolare nel 2008 e nel 2009, che sono stati i periodi, come sapete, più intensi, nei quali la cosiddetta stretta del credito, per quanto sempre negata dal sistema bancario, si è fatta sentire di più. Allora, nel 2008 si registrava un più 5% per il sistema bancario nel suo complesso, e le banche di credito cooperativo facevano registrare un più 11,6. Nel 2009 il sistema bancario faceva registrare un più 2,2, le banche di credito cooperativo un più 6,6. Allora Dell'Erba, questo dipende, suppongo, dal fatto innanzitutto che avete una struttura cooperativa nella quale è presente il territorio e quindi in qualche misura bisogna muoversi così per forza. E poi immagino anche questa vicinanza al territorio vi porti ad essere necessariamente più vicini alle imprese. Beh, direi di sì. Noi siamo le banche di elezione delle microimprese familiari diffuse nella provincia italiana. Siamo presenti particolarmente nella provincia italiana, dove il fenomeno delle piccole e piccolissime imprese è particolarmente presente. E quindi è normale che in tempi di difficoltà noi siamo anticiclici, e quindi abbiamo continuato a rilasciare credito anche in momenti complessi. Facciamo questo perché conosciamo la gente, sappiamo le loro esigenze, i nostri clienti sono i nostri soci e quindi c'è una relazione particolarmente intima con il territorio, anche perché noi nel corso degli anni abbiamo valorizzato il nostro patrimonio e quindi non abbiamo avuto fino a questo momento difficoltà patrimoniali per sostenere il credito. Perché chiunque sa che il credito è collegato non solo e non tanto alla capacità di essere liquidi, quanto alla capacità di avere un patrimonio adeguatamente alto per riuscire a rilasciare appunto il credito. Quindi diciamo che noi siamo banche sufficientemente patrimonializzate grazie al fatto che non distribuiamo utili individuali, e quindi questo patrimonio ci consente, ora che i tempi sono più complessi, di continuare a sostenere il nostro tipo di credito tradizionale, che è appunto quello al quale lei cortesemente ha fatto riferimento. E poi immagino che, a differenza delle grandi banche, grossa finanza non ne facciate. Direi che noi non abbiamo assolutamente fatto finanza, nel senso che quando c'è stata la crisi spiccatamente finanziaria noi ne siamo usciti indenni, perché noi non pratichiamo la finanza per la finanza, ci è direi proprio preclusa dalle norme statutarie. Pensi che nei nostri statuti è espressamente scritto che non possiamo assumere posizioni speculative, e quindi abbiamo visto come lo stare lontano da un certo contesto ci abbia giovato, nel senso che abbiamo protetto i nostri patrimoni, che non si sono consumati per operazioni finanziarie complesse, ancorché magari redditizie in certi momenti. Allora, parlavamo della vicinanza al territorio dell'Erba. Da quel che ho capito, perché poi non tutti conoscono come funzionano esattamente le banche di credito cooperativo, nella sostanza i vertici delle banche di credito cooperativo vengono scelti direttamente tra i soci. Noi pratichiamo da tempo, da oltre 100 anni, forme compiute di democrazia economica, nel senso che i soci ai quali viene richiesto un apporto di capitale molto modesto eleggono i loro presidenti, i loro consiglieri, i loro sindaci nel contesto della loro base sociale, che è numerosissima. Le nostre banche hanno ciascuna migliaia di soci che non si attendono un dividendo individuale, ma si attendono la realizzazione di benefici collettivi, appunto mutualistici, grazie a un'attività che la banca svolge sussidiariamente in favore delle comunità di riferimento. Per altro verso, il controllo sociale che viene esercitato su di noi, per converso, è molto intenso, perché noi conosciamo benissimo i nostri clienti conoscono noi, noi abbiamo testa e gambe nei luoghi dove lavoriamo, le scelte vengono fatte esattamente nei territori dove siamo presenti, quindi il presidente della banca è uno del paese, è una persona conosciuta, è uno che conosce i propri clienti, insomma. Non saprei come meglio spiegarle in poche sì, parole. Sì, sì, sì, no. Concetto di immediata relazione. È chiarissimo, è chiarissimo. Allora, io a questo punto voglio arrivare al periodo della crisi. Lei ci diceva che avete avuto pochi problemi perché eravate ampiamente patrimonializzate come gruppo, sì, come gruppo di banche. Detto ciò, vi sarete trovati di fronte ad una serie di situazioni difficili, perché la sofferenza dal lato degli ordini si è toccato le grandi industrie, possiamo immaginare, e sappiamo quanto abbia toccato i piccoli, in particolare gli artigiani. Insomma, quando uno ha un fatturato magari di 300-400 mila euro l'anno, già il fatto che vengano a mancare un paio di ordini può mettere in crisi. Come vi muovete in questi casi? Sicuramente è così, anche la vicinanza al territorio ci fa soffrire con il territorio. Fino a questo momento, pur avendo osservato una qualche crescita di queste partite anomale, non posso dire che la loro rilevanza è tale da metterci in particolare difficoltà. La curva di questi numeri è sfavorevole, cioè le partite anomale tendono a crescere, ma fino a questo momento credo che sono per così sì, Dell'Erba, però quello che dico è che al di là delle vostre difficoltà che possono derivare da questi fatti e da questi eventi, quello che voglio capire è come si muove una banca di credito cooperativo quando si trova di fronte ad un caso di questo genere, insomma, quando dei crediti vanno in sofferenza. Quando il credito va in sofferenza, la sofferenza non è una valutazione soggettiva, ma come lei sa è un dato tecnico. A me piace ricordare che quanto spesso magari nelle conversazioni dimentichiamo di dire, e cioè che l'esercizio del credito è regolato per norma costituzionale, cioè si dice nella Costituzione che l'esercizio appunto del credito va regolato, e quindi le regole che stabiliscono ciò che è sofferenza e ciò che no sono delle regole oggettive. Quindi lei comprende bene come quando una partita diventa oggettivamente sofferenza è complicato gestirla. Allora ci sono varie modalità per gestirla, per esempio taluni la portano fuori dalla propria azienda, la vendono a riscossori di credito particolarmente accorti e capaci di farlo, altri, per esempio noi, tendono a tenerli in casa cercando di gestire queste posizioni tutelando gli interessi della banca e magari non strapazzando eccessivamente il cliente che in quel momento sta vivendo una situazione di difficoltà che può essere anche transitoria. Quindi sicuramente rispetto delle regole, ma nel contempo comprensione anche delle situazioni umane. Cioè, come dire, si cerca in ogni caso di preparare una sorta di piano di rientro per l'artigiano o il piccolo imprenditore che si trova, diciamo, in difficoltà. Diciamo che il ricorso a forme espropriative e aggressive sul piano giudiziario è l'ultima spiaggia, insomma. Cerchiamo sempre di dialogare con le persone e capire se sono, come devo dire, aziende ormai ferme e irrecuperabili o se sono aziende avversate dal ciclo. E allora, se sono aziende avversate dal ciclo, avversate dal momento, bene, noi abbiamo la pazienza di aspettare, pur appunto nel rispetto delle regole. Grazie, grazie ad Augusto Dell'Erba, vicepresidente della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo. Buonasera. Grazie a lei. Ed è veramente tutto per questa puntata e anche per questa settimana di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci sentiamo lunedì dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.